come posso anche capire, c'è un produttore di pomodori che prima vendeva 100 kg perché aveva le maestranze, aveva il trattore, e quindi adesso ne vende 50 perché il trattore è rotto, non lo può riparare. Il povero extracomunitario che gli andava a dormire, a raccogliere, non ci può andare, ha dovuto aumentare. Ma ci sono anche i furbi che ne stanno approfittando. Quindi questo, attenta agli sciacalli che vi vendono le mascherine false, attenta agli sciacalli, perché oggi non ho detto attenta allo Stato, sciacallo!